viso d'ogni cuor. Sì, quest'amore splendido come il sole e più del sole tutti ci illumina, è qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Ci illumina.